Per scoprire il sesto dei sette segreti di Bologna ci rechiamo in Piazza del Nettuno, uno dei luoghi di ritrovo preferiti per i bolognesi, gli studenti e i turisti, che da secoli si incontrano ai piedi della monumentale fontana progettata da Tommaso Laureti e sulla quale svetta la statua in bronzo del dio del mare. Per i bolognesi, affettuosamente, il gigante. L'apertura della piazza risale al 1564 per volontà del cardinale Borromeo, all'epoca legato a Bologna, nell'ambito di un'opera di riqualificazione dell'area di Piazza Maggiore. Com'era consuetudine, vennero quindi espropriate e poi demolite le case e le botteghe che occupavano lo spazio compreso tra l'attuale Sala Borsa e il Palazzo Re Enzo. L'intenzione del cardinale era di dotare la città di un monumento che fosse simbolo del felice governo del neoeletto Papa Pio IV, ovvero suo zio, Giovanni Angelo Medici, nonostante il nome altisonante non imparentato tuttavia con i signori di Firenze. Venne ingaggiato l'architetto Tommaso Laureti, che realizzò il progetto generale della fontana con chiara impronta manierista. Fu lo stesso Laureti a contattare lo scultore fiammingo Jean Boulogne de Douai, il cui nome fu poi italianizzato in Gian Bologna, per la realizzazione della statua di Nettuno. In quel periodo il Gian Bologna si trovava a Firenze, dove si era distinto per un progetto analogo. Aveva infatti avanzato una proposta al concorso indetto da Cosimo de' Medici per la realizzazione della Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria. Tuttavia, la commessa era andata a Bartolomeo Ammannati. Scrisse il Vasari riguardo a questa circostanza. Non pensava già maestro Gio Bologna ad avere a fare il gigante di marmo, ma voleva almeno mostrare la sua virtù e farsi tenere per quello che gli era. Ed evidentemente raggiunse il risultato sperato, ottenendo l'incarico a Bologna l'anno successivo. Per realizzare il Nettuno, il Gian Bologna si servì della fonderia della fabbriceria di San Petronio, che era situata nell'attuale Piazza Galvani. Pare tuttavia che l'artista fiammingo avesse un carattere abbastanza burrascoso, al punto che finì per litigare con il fonditore Zanobi Portigiani, che avrebbe dovuto aiutarlo nella fusione, e dovette fare tutto da solo. Celebre la controversia che lo contrappose al cardinale Borromeo in merito agli attributi del gigante. Pare che secondo lo scultore sarebbero dovuti essere più grandi, ma il cardinale si impuntò, obbligandolo a una riduzione dei genitali della divinità. Fu così che il Gian Bologna architettò una singolare, ironica rivalsa. Ed ecco svelato il sesto segreto. Da un'opportuna prospettiva, Nettuno sembra avere il fallo in erezione. La curiosa visuale si ottiene posizionandosi su una pietra più scura, ai piedi della scalinata della Sala Borsa, chiamata scherzosamente Mattonella della Vergogna o Mattonella della Zitella. In realtà si tratta del pollice della mano sinistra, che il dio protende nell'atto di calmare le acque. Comunque sia andata, pare che a detta dei religiosi le nudità della statua fossero motivo di imbarazzo per le donne del passato, al punto che nel tempo si succedettero diverse proposte di vestire Nettuno e le altre ninfe della fontana, che spruzzano acqua dalle mammelle, con abiti opportunamente fusi nel bronzo. Fortunatamente, di questi progetti non si fece mai nulla. Una curiosità. Si dice che uno studente che voglia assicurarsi la promozione a un esame importante debba compiere due giri intorno alla statua in senso antiorario, rievocando ciò che fece all'epoca il Gian Bologna, che girò intorno al piedistallo realizzato da Laureti per riflettere sul progetto della statua che diede di fatto inizio alla sua fortunata carriera, dopo la sconfitta al concorso fiorentino. La statua del gigante, con il suo vibrante dinamismo, la plasticità delle sue forme, la torsione e l'imponenza della sua presenza spaziale, si affermò nel tardo Cinquecento come un modello ideale di arte monumentale. Le memorie del sottosuolo.